due parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! Eccoci, ben trovati a tutti e a tutte i nostri amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Questo è Radio Wombat e siete sullo spazio della Stampa Rassegnata. La Stampa Rassegnata, per chi non la dovesse ancora conoscere, è una trasmissione informativa della nostra radio, del nostro Wombat, nella quale cerchiamo da ormai più di un anno, e lo diciamo anche con un certo orgoglio per la continuità che siamo riusciti a garantire ai nostri microfoni, sviluppiamo riflessioni, critiche, speriamo anche interessanti per chi le ascolta, rispetto a quello che succede nell'area metropolitana fiorentina. Tra le cose principali che abbiamo sempre preso in analisi ci sono le due vertenze popolari che animano i nostri territori, quella contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, che ha subito una battuta d'arresto non da poco e sulla quale speriamo che sia davvero una vittoria che abbia tombato le aspettative e i desideri della lobby dell'incenerimento, e poi l'altra vertenza, quella dell'aeroporto, contro la costruzione del nuovo aeroporto di Peretola e nello stesso tempo per il ridimensionamento e nella direzione di una progressiva dismissione dell'aeroporto attuale. Bene, queste sono un po' le cose che abbiamo nel tempo, con più frequenza e con più continuità, preso in esame, ma certamente siamo aperti anche ad altri avvenimenti, anche ad altri accadimenti, e anche questa settimana vogliamo, per l'appunto, tra virgolette, deviare da questa strada maestra che seguiamo da tempo per parlare di quello che è successo a Prato il 23 di marzo, per l'appunto sabato, giornata nella quale la organizzazione neofascista Forza Nuova aveva dichiarato, o meglio, ha poi per l'appunto svolto una manifestazione presidio contro sui temi ovviamente dell'immigrazione, della clandestinità, della sicurezza, del degrado, che sono praticamente un tutt'uno, come sempre avviene ormai negli ultimi perlomeno 20 anni, possiamo dire, senza alcun dubbio, è un must della politica istituzionale che chiaramente ha anche visto il protagonismo su questi temi delle organizzazioni della destra cosiddetta istituzionale e democratica, cioè quella che dalla svolta di Fiuggi in poi si è tentata di ripulire del suo passato fascista, perlomeno da un punto di vista culturale e storico, per invece rendersi più compatibile con il quadro istituzionale che negli anni 90 si è aperto. E dall'altra parte, su questi temi si sono anche accanite le organizzazioni neofasciste per arrivare a una situazione, quella dell'oggi, nella quale vediamo sempre di più la penetrazione di questi temi in tutte le forze politiche. In tutte le forze politiche, a partire chiaramente dalla forza di destra maggioritaria in questo momento, che è la Lega, capeggiata da Matteo Salvini, che costituisce per le organizzazioni neofasciste quell'ombrello politico che le protegge, le sdogana. Un ruolo, quello della Lega di Salvini, giocato nell'attualità, che assomiglia moltissimo al tentativo, e poi riuscito peraltro, che la Casa delle Libertà e Forza Italia e Alleanza Nazionale fecero nei confronti delle organizzazioni neofasciste nei primi anni del 2000, quando per l'appunto riuscirono a sdoganarle, per arrivare poi alla situazione odierna nella quale partiti come Forza Nuova o Casa Pound o chi per loro si tranquillamente si candidano, portano i loro personaggi e le loro candidature politiche nelle elezioni amministrative, nelle elezioni nazionali, e quindi purtroppo questa è la situazione. Che dire, come ci diranno anche i compagni e le compagne con i quali ci siamo collegati per l'appunto via telefonica nel giorno della manifestazione, prima con Adele e Giulia, che direttamente dal presidio ci hanno dato un aggiornamento su quello che stava succedendo, e poi con Nicola di Potere al Popolo di Prato, con il quale invece ci siamo collegati nell'immediata fine della manifestazione, cioè un'ora, due ore dopo, per fare un bilancio della giornata e un senso, e insomma farci raccontare da lui e dal suo circolo e dai compagni di Potere al Popolo di Prato, che agiscono e sono radicati sul territorio, anche qual è il ruolo di questa e di altre organizzazioni fasciste e del perché di questa mobilitazione. Ma prima di dare la parola a questi compagni, a queste compagne che ci hanno direttamente parlato dal presidio e della manifestazione, vorrei con voi dare un'occhiata ai giornali precedenti alla manifestazione e a partire, insomma, da un articolo di Repubblica che riporta le posizioni di tutte le forze politiche e sociali intervenute in questa vicenda, e lo fa come lo avrebbe fatto La Nazione o anche il Corriere, senza aggiungere molto del suo. Quindi è un articolo che lo possiamo considerare cartina al tornasole di quello che è il trattamento, quello che è stato il trattamento da parte della stampa mainstream dei giorni che hanno preceduto il corteo. È un articolo del 21 di marzo, per l'appunto, della Repubblica, che dice: sì al corteo di Forza Nuova, non celebrano i fasci. La prefetta di Prato spiega perché è stato autorizzato, nonostante i riferimenti al centenario delle formazioni di Mussolini. Il sindaco Biffoni: io contrario, rischio per l'ordine pubblico. Ecco, e già nel sottotitolo si capiscono alcune cose, cioè c'è la ricorrenza della fondazione dei fasci di combattimento da parte di Mussolini, cosa che in qualche modo fornisce il pretesto per una doppia ambiguità. Perlomeno dal mio punto di vista, o meglio, cosa significa? Che questa celebrazione ovviamente viene utilizzata dalle forze della sinistra democratica, con questa mi riferisco in particolar modo al Partito Democratico e alla componente CGL pratese, che si scagliano contro la manifestazione perché, appunto, dicono è fuori dalla Costituzione, perché in qualche modo accenna al fascismo, e quindi siamo nella possibilità di utilizzare la legge Mancino contro la manifestazione, e quindi va vietata proprio perché, cosa dicono? Perché celebra la fondazione dei fasci di combattimento. In realtà, appunto, poi questo fornisce nello stesso tempo la possibilità alla prefettura di attaccarsi a un altro cavillo, cioè dicendo che in realtà la manifestazione non è per celebrare i 100 anni dalla fondazione dei fasci di combattimento, ma in realtà è contro l'immigrazione clandestina. E quindi in questo spazio di ambiguità c'è la possibilità di manovrare per i neofascisti, che riusciranno poi a portarsi a casa la manifestazione e il piccolo corteo. Certamente una manifestazione che, come ci racconteranno i compagni, è all'insegna della blindatura, è all'insegna di una sproporzione numerica spaventosa tra, diciamo, i compagni, o quantomeno la Prato antifascista, e invece la cinquantina di aderenti a Forza Nuova che arriveranno a Prato, ma nello stesso tempo segna al loro vantaggio ancora una volta la possibilità di aver manifestato, nonostante siamo certamente all'interno di nella totale possibilità di utilizzare la legislazione e anche la carta costituzionale sia contro questa manifestazione, sia ancora più in modo radicale e sensato sarebbe possibile farlo nei confronti dell'esistenza stessa di questa organizzazione e degli spazi di cui essa può avvantaggiarsi e che può utilizzare. In realtà, appunto, la mobilitazione di carta, anche se li ha visti in piazza, della sinistra pratese, con questa, come ho detto, soprattutto PD e CGL, che sono stati tra i principali organizzatori della manifestazione, ovviamente insieme all'ANPI, risulta poi di fatto molto poco utile a vietare la manifestazione, perché, come ho detto, ci sarà. Quindi guardiamo un attimo l'articolo che riassume un po' questa vicenda. Alla fine la manifestazione di Forza Nuova si farà, nonostante i numerosi appelli arrivati da tutte le parti della città perché venisse vietata, a partire da quello del sindaco Matteo Biffoni. Ovviamente, come potete immaginare se non lo sapete già, Matteo Biffoni, sindaco pratese, sindaco del Partito Democratico. Dalle associazioni sindacali fino alla Curia. Si mette sullo stesso piano. Nonostante le scritte minacciose comparse nella notte tra lunedì e martedì davanti alla sede dell'ANPI e del PD di Prato, una decisione che, tra l'altro, mette sullo stesso piano sia il corteo di Forza Nuova che la contromanifestazione, che si terrà lo stesso sabato. Ecco che si gioca, nonostante da una parte ci sia Forza Nuova e dall'altra ci sia niente po' di meno che il sindaco, si utilizza uno schema ormai anche questo almeno trentennale, che è quello degli opposti estremismi, come se il sindaco di Prato, la CGIL e l'ANPI potessero essere considerati estremisti solo perché in una determinata fase politica, e tra l'altro anche per loro opportunità d'immagine, impugnano, come hanno fatto altre volte, la bandiera dell'antifascismo, sul quale si dovrebbe, diciamolo appunto con il condizionale, fondare la nostra Costituzione. Prato ha subito il colpo, abbiamo applicato la legge, afferma in una nota la prefetta Scialla, e abbiamo garantito i diritti sanciti dalla Costituzione di manifestare e di esprimere la propria opinione. Quindi qui veramente il commento va da sé. Loro garantiscono il diritto sancito dalla Costituzione di manifestare ed esprimere la propria opinione, anche se lo fanno per dei fascisti che la stessa Costituzione, insomma, dovrebbe impedire la ricostituzione del partito e tutta una serie di cose che dovremmo tutti conoscere. Il motivo per cui ci risulta sia stato indetto il corteo non è la celebrazione del centenario del fascio, ma la lotta all'immigrazione clandestina. E qui, ovviamente, come dicevo prima, quello spazio di ambiguità che gli ha permesso di portare a casa la manifestazione. Ovviamente molto grave, perché nelle dichiarazioni di tutti si condanna e si fa continuamente riferimento all'orrore della celebrazione del centenario del fascio, ma mai nessuno dice che la manifestazione contro l'immigrazione clandestina e per la lotta ad essa sia un problema. Quindi di fatto si vuole ridurre l'antifascismo a un problema di memoria storica, che certamente non sarebbe da poco, ma va sempre attualizzato e collegato al presente, e si rimuovono invece i nodi veri e propri della politica e dell'organizzazione della nostra società, che ruotano intorno a temi come quelli dell'immigrazione. Poi il clandestino, o meglio, immigrazione clandestina, nei loro ragionamenti vanno sempre insieme, e invece non è così. Insomma, sappiamo che immigrazione non è necessariamente clandestina, e la condizione di clandestinità è una condizione dettata da un assetto amministrativo e giuridico che può essere assolutamente cambiato in base a come leggiamo la politica e a come vogliamo organizzare le nostre società. Andiamo avanti. Nell'articolo i riferimenti al centenario dei fasci di combattimento sono evidenti ed espliciti, con la data del 23 marzo che coincide con quella della nascita e un bel 100 contornato di alloro stampato sul volantino della manifestazione. Quindi insomma, riferimenti tra l'altro c'erano, ma diventano, come ho detto, insomma, un pretesto per attaccarsi a una cosa e trascurarne un'altra, che sicuramente, perlomeno dal mio punto di vista, è certamente più importante e calzante. Dunque sabato Forza Nuova potrà manifestare per le strade di Prato. In città sono attesi almeno 500-600 attivisti, queste evidentemente le dichiarazioni di Forza Nuova, che dichiarano 500-600 attivisti in arrivo, in realtà saranno 50-60, quindi 10 volte meno di quello che dicono. E considerando, qui c'è un accenno al fatto che in piazza del Nuovo Mercato c'è il tempio buddista, e che chiaramente tra buddisti ci sono anche molti o diversi cinesi, e quindi insomma non è scelta a caso la località del luogo della manifestazione dai fascisti, che sfileranno o vorrebbero sfilare sotto le parole d'ordine di salvare l'Italia da una vera e propria invasione afro-islamica e cinese. La preoccupazione ci può stare. Resto fermamente contrario alla manifestazione, dice il sindaco Biffoni. Il giorno scelto è la celebrazione del fascismo, ricordata in ogni comunicazione di Forza Nuova. I toni violenti e la tensione che in questi giorni è andata aumentando, secondo me, vanno sempre condannati. Quindi questo è un po' il senso dell'intervento del sindaco, no? Quindi c'è il fatto che aumentano i toni, ci sono stati ovviamente l'episodio delle scritte fatte davanti alla sede del PD e dell'AMPI, con le svastiche, con scritto Dux, la solita fascisteria di questa banda di merde, e certamente grave, anche se insomma viene colpita quella sinistra lì. E quindi, insomma, ecco, il sindaco Biffoni condanna questa manifestazione per questi temi, ma senza entrare nel merito della immigrazione e della lotta all'immigrazione clandestina che, come appunto ci ricorderanno giustamente i compagni pratesi, ha accomunato in maniera davvero impressionante sia la destra che la sinistra. E il nuovo Partito Democratico che esce dalle nuove primarie con questo nuovo Zingaretti che tenta di rimettere insieme i pezzi dopo l'esperienza renziana che ha portato il partito davvero sull'orlo del suo esaurimento storico, non bastano insomma a cancellare quello che è stato e che con molta probabilità sarà ancora la politica in materia di migrazione, controllo e sicurezza fatta dal centro-sinistra. Quindi niente, questo era un po' il giornale. Come ho detto, possiamo tenerlo a mente come indicatore di quello che è il trattamento mainstream della manifestazione che, lo diciamo ancora, è stata ridotta da un corteo a un presidio. Poi in realtà una piccola sfilata gliel'hanno davvero concessa in modo assolutamente blindato. Ce lo racconteranno i compagni, ai quali lasciamo immediatamente la parola nell'intervento di Adele. Salve a tutti, siamo Adele e Giulia qui da Piazza delle Carceri. Ciao compagni. Ciao a tutti, la partecipazione è veramente, direi, ampia e numeri confortanti, comunque diremmo qualche migliaio di persone. È un po' difficile da qui riuscire ad avere la visione piena della piazza, però diciamo che non riuscendo a muoversi è positivo perché è bella gremita. Sì, appunto, come si diceva, partecipazione ampissima, è un viaggio vintage anche in bandiere di partito che uno pensava estinti o anche cose nuove, tipo abbiamo visto le bandiere del partito di Calenda, quindi insomma direi abbondano le bandiere del PD, insomma ci sono veramente tutti. I fasci invece blindatissimi, noi per arrivare qua abbiamo fatto veramente fatica perché hanno creato una sorta di cordone di strade chiuse, per cui erano veramente inavvicinabili. Sembra essere circa meno di 100 persone, non arrivano a un centinaio e sono assolutamente scortati, ecco, quindi insomma sono in questo momento scortati completamente per arrivare al punto del presidio perché ancora non erano lì. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere senza scatti di furore fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete, guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni. Movimento ma del cazzo, come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete, guardate il capobanda, è un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace si è indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore, ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti, ste carogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Eccoci, si torna in voce. Questa era una pausa musicale con Fausto Amodei, veramente un classico dell'antifascismo, la canzone Se non li conoscete. Se vi siete collegati adesso, questa è Radio Wombat all'1359 in modulazione di frequenza in onde medie. Questo è lo spazio radiofonico della stampa rassegnata. Stiamo parlando della manifestazione contro Forza Nuova a Prato e adesso, prima di collegarsi con Nicola, solo semplicemente un promemoria per tutti e per tutte. Sabato 30 marzo si svolgerà la manifestazione No Aeroporto, Sì al Parco. Ritrovo alle ore 14.30 al Polo Scientifico. Mi raccomando, nella Piana Fiorentina la posta in gioco è veramente molto alta da un punto di vista dell'impatto ambientale, della salute, dei soldi pubblici sottratti a diritti sociali che potrebbero e dovrebbero essere finanziati. No a questo nuovo aeroporto, 14.30 al Polo Scientifico. Ed ora diamo la parola a Nicola, con cui abbiamo realizzato una discreta, interessante e lunga intervista, e a risentirci dopo. Ci colleghiamo per fare un commento postumo sulla giornata di oggi con i compagni e le compagne di Potere al Popolo, nello specifico con Nicola, al quale diamo immediatamente la parola dopo un saluto a pugno chiuso. Ciao Nicola. Ciao a tutti i compagni. Chiedendo appunto un commento su questa giornata, che per quello che ha girato immediatamente sui social, nei commenti e nelle chat fra compagni e compagne, sembra essere stata una giornata abbastanza positiva per Prato e per tutto il territorio metropolitano fiorentino. E insomma, a te la parola, raccontaci che è successo e com'è andata. Allora, sì, grazie mille. Allora, la giornata sì, nel complesso è stata molto positiva, specialmente per una città come Prato. Ovviamente ci sono tanti retroscena che ora, nel mentre che parlo, vi descriverò più dettagliatamente. La giornata è stata positiva perché Prato è una città che, nonostante sia una città industriale, è sempre stata un po' una città poco politicizzata, una città di immigrazione per lavoro, quindi diciamo anche storicamente non ha mai avuto una storia politica importante nella sinistra popolare. Quindi è stata una cosa abbastanza grossa, che ha avuto molto risalto mediatico e che ha portato tante persone che normalmente diciamo non sono attive in campo politico a venire in piazza. Quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Retroscena, dicevo, come dicevo prima, ce ne sono in abbondanza, nel senso che diciamo nelle assemblee che sono state fatte per organizzare questa contromanifestazione, che poi di fatto è stato un presidio dalla parte opposta della città, del centro storico, rispetto a dove si faceva la manifestazione di Forza Nuova, è stata diciamo quasi subito monopolizzata dalla CGIL, diciamo, che ci ha messo un pochino dei paletti tra virgolette sul come fare e cosa fare durante questo presidio. Quindi ha diciamo detto, siccome per me, io in modo molto chiaro, siccome i permessi si pigliano noi, si fa il presidio in piazza delle Arcili, non si fa niente di nessun corteo, non si chiede nemmeno. Diciamo, hanno un pochino impostato la questione in modo molto molto molto diciamo blando, cioè per rimanere nel calmo, tra virgolette, se possiamo così definirlo. La reazione istituzionale quindi del sindaco è stata immediata, nel senso che ha subito mandato una lettera pubblica al questore e alla prefetta dicendo di non accogliere la manifestazione di Forza Nuova. Ovviamente dal nostro punto di vista molto ipocrita e contraddittoria rispetto alla politica che viene fatta in questa città e in generale dal suo partito quando è stato al governo, e non solo da questo governo che c'è ora con la Lega e il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD quando era al governo. Non devo ricordare io decreto Minniti e legislazioni contro i lavoratori che portano e alimentano la guerra fra poveri che viviamo tutti i giorni. Io sono un lavoratore, siamo tutti lavoratori, quindi cioè, dentro Potere al Popolo specialmente siamo quasi tutti giovani, precari, camerieri, operai, e ne viviamo tutti i giorni queste contraddizioni, viviamo tutti i giorni questa precarietà che viene accentuata dai governi, e la maggior parte delle questioni sono state proprio poste dai PD, cioè la maggior parte delle dinamiche che hanno portato alla riduzione dei diritti del lavoro sono state portate dal PD, dalla CGIL, quindi da quelle istituzioni che in teoria erano una volta almeno in legame con il mondo del lavoro. Ecco, Prato è una città che è rimasta molto legata a queste realtà, quindi non c'è mai stato un vero distacco sociale da parte contro il Partito Democratico o contro la CGIL, e questo l'abbiamo subito anche durante questa manifestazione, che sostanzialmente è stata, nonostante la positività di cui dicevo prima, perché comunque sia la manifestazione contro il fascismo, fa piacerissimo vedere che le persone che non seguono la politica, quindi queste dinamiche non gliene frega niente, non le seguono, non le conoscono, quindi fa piacere che comunque le persone si siano mobilitate per questo. Però dall'altro canto vediamo come queste dinamiche siano preponderanti, e l'abbiamo visto proprio nell'organizzazione della piazza, che è stata fondamentalmente uno spot elettorale per il PD. Di fatto, infatti, per esempio, noi di Potere al Popolo abbiamo deciso, anche con i compagni che sono venuti da Firenze, abbiamo deciso di non portare le nostre bandiere, se non metterne una per far vedere dove eravamo come punto di ritrovo. Non portare le nostre bandiere, no, per dire che non c'eravamo in piazza. Abbiamo volantinato, abbiamo fatto un cortellino dalla stazione fino a Piazza delle Carceri, tutti sapevano che c'eravamo. Avevamo le magliette con le nostre scritte, quindi ci abbiamo messo la faccia. Non abbiamo fatto le bandiere per una questione meramente mediatica. Dal giorno dopo la prima assemblea di organizzazione non c'era neanche uno del PD, eppure sui giornali è passata come l'organizzazione ampi CGIL, PD, Giovani Democratici. Quindi i Giovani Democratici conoscono i giornalisti, si sono fatti sentire, hanno fatto le interviste, e è passata come se fosse tutta una cosa organizzata da loro, quando di fatto nel poco che potevano fare hanno tirato indietro spesso su proposte molto più avanzate da parte di singoli che avrebbero voluto una risposta un pochino più decisa, un pochino più animata, almeno un corteo, almeno più vicino, cercare in modo un pochino più sostanziale di impedirla questa manifestazione, non solo facendo una richiesta perfetta a questori che notoriamente non sono proprio compagni, quindi anche andare a chiedere al prefetto e al questore di annullare la manifestazione Forza Nuova già da subito a noi ci è sembrato un po' una presa in giro, e poi si è dimostrato così nei fatti, perché il prefetto e il questore ovviamente appellandosi alla legge possono raccontarci tutto quello che vogliono. Quindi io credo che la situazione ci faccia capire benissimo i rapporti di forza che ci sono oggi all'interno della società. Credo che Pramu sia una città emblematica da questo punto di vista, proprio per la mancanza di una sinistra popolare, cioè ci sono tanti motivi per cui può essere questa cosa qui. Non ci sono università, non ci sono centri sociali, non ci sono mai stati, non c'è un lavoro politico sociale forte. Cioè il lavoro sociale può essere quello della Chiesa Cattolica, che ovviamente non è politico, anzi se è politico comunque sia non è sicuramente popolare, ma popolare nel senso socialista del termine, non nel senso cattolico. Quindi diciamo tutte queste dinamiche, secondo me quella piazza a Prato in particolare ci fa proprio capire quali siano i rapporti di forza, e il PD secondo me un pochino è riuscito a farsi la volata per le elezioni del dire facciamo il fronte antifascista contro questi barbari che stanno arrivando, lo trasporteranno questo ragionamento sulla Lega, ma di fatto la sostanza è la stessa. D'altro canto comunque la positività della piazza, la positività dell'aver trovato compagni, persone che non si conoscevano, singoli che hanno voglia di fare qualcosa in più, che riconoscono che il PD è un'ipocrisia, era in totale contraddittorietà tra le politiche che fa e quello che poi viene a dire quando c'è una manifestazione di Forza Nuova, perché qualcuno gliel'ha fatta aprire le sedi, qualcuno a Forza Nuova, a Casa Pound. Poi c'è da dire, ci sono anche altre cose a Prato, c'è Etruria 14, un'associazione culturale, tra virgolette, che sono fondamentalmente dei neonazisti, e dai quali Forza Nuova, mentre stiamo parlando, probabilmente staranno facendo una cena e un concertino alla loro sede. Quindi questo cioè, è proprio emblematico dei rapporti di forza da cui siamo arrivati. Roberto Fiore non ha avuto paura a dire al questore, al governo c'è Salvini, quindi io questa manifestazione la faccio pubblicamente. Quindi quando ci sono questo tipo di rapporti, per i quali oggi non solo i fascisti non si nascondono, ma bellamente in pubblico osano, nel senso che non hanno paura perché sanno di essere protetti, quindi questo è proprio, è questa la gravità vera della situazione più generale, è questa, e non ci possiamo dimenticare chi ci ha portato a questo e perché siamo arrivati a questo, con quali politiche siamo arrivati a questo. Quindi i fascisti non si combattono solo in piazza, si combattono tutti i giorni sul luogo di lavoro, si combattono tutti i giorni nelle scuole, si combattono tutti i giorni facendo politiche per i lavoratori e per le persone, non politiche contro i lavoratori per i padroni. Questo sostanzialmente. No, certo, Nicola, sei stato molto molto chiaro in quello che volevi dire. Io anzi, se posso approfittare, ti chiederei ancora un po' di più da questo punto di vista. Secondo te i numeri di oggi, no? Che comunque, come anche te hai detto, sono stati significativi per la città di Prato. Cioè pensi che siamo, diciamo, la cosa forse più interessante da indagare non è tanto i 50 di Forza Nuova, no? Che 50 erano, 50 sono stati altre volte, e ci auguriamo che 50 restino più lungo tempo. Forse la riflessione è più importante, che è quella sulla quale giustamente ha insistito, è quella intorno alla sinistra, quella sinistra PD, quella sinistra CGL, che ha anche le sue articolazioni giovanili sindacali, che ha fatto in qualche modo un tentativo, ovviamente vista anche la tornata elettorale, un tentativo non certo ingenuo, ma la gente che ha risposto, la possiamo considerare in qualche modo motivata davvero dalla percezione oggettiva dell'area che tira, e anche capace di individuare le responsabilità oggettive che la stessa sinistra istituzionale in questi decenni ha avuto nello sdoganamento di queste organizzazioni? Oppure purtroppo dobbiamo riconoscere che in piazza c'era quella base sociale, cioè la base sociale dei PD, la base sociale della CGIL, che di fronte a un partito che ha rischiato seriamente di scomparire dal panorama politico sta cercando di ritirare fuori tutto dall'armadio, compreso l'antifascismo, l'antirazzismo, di rimpugnare le bandiere dei diritti, del lavoro. Cosa pensi? Dentro la piazza c'è stato delle, diciamo, delle tensioni, si è un po' respirata questa consapevolezza sul ruolo della sinistra o no? Allora, devo essere sincero, poco, molto poco. Quindi io sarei più nel complesso per dirti, complice probabilmente anche il clima politico che c'è a Prato, come dicevo prima, sarei più propenso a dirti che è la seconda delle opzioni che hai dato. Cioè, purtroppo è vero, in piazza c'era tantissima gente, c'erano migliaia di persone, si parla di qualcuno dice 3.000, qualcuno 4.000, insomma i numeri poi, però c'erano migliaia di persone, questo è un dato, cioè, c'era veramente tanta gente. È stata una cosa ovviamente per cui, ad esempio, Ampi, CGL, CISL, UIL, quindi io ho parlato di PD e CGL perché sono i veri traditori dal nostro punto di vista di quella sinistra che volevano rappresentare, però ovviamente c'era anche tutto un altro mondo che non è mai stato, diciamo, dalla nostra parte e che però in un qualche modo cerca di rappresentarlo, quindi ad esempio CISL e UIL nel nome dell'unitarietà dei sindacati sono passati per organizzatori della manifestazione nonostante non si siano mai visti nelle assemblee o a Prato in generale, quindi diciamo c'era tanta gente anche da fuori. Quindi io direi che non c'era in piazza un clima, diciamo, di contestazione della sinistra istituzionale, perché secondo me c'era una parte della piazza che era proprio portata dalle organizzazioni, cioè non era neanche una base sociale, era proprio parte dell'organizzazione, sì, era proprio funzionale alla manifestazione, cioè Ampi, CCL, CISL, UIL, questa gente che ha portato bus di persone, cioè senza, diciamo, una vera base politica, erano proprio facenti parte dell'organizzazione e tutta una serie di singole persone, cioè c'erano anche famiglie, c'era di tutto, che però a mio modo di vedere non hanno una critica verso la sinistra istituzionale, perché gli occhi ciecati non ce l'ha nessuno. Al tempo stesso questa mossa del PD purtroppo funziona, anche se in modo parziale, però funziona, perché ovviamente l'antifascismo, l'antirazzismo è una cosa che smuove tante persone e di questo siamo molto felici, però al tempo stesso chi ha appunto il controllo delle istituzioni, il controllo dei media e tutte queste funzioni qua ovviamente ha modo di monopolizzare anche questo tipo di discussione e quindi purtroppo, diciamo, in piazza c'è stato anche questo. Noi abbiamo comunque contestato il sindaco ad esempio con fischi e urla, però non è che c'è stata una sommossa di popolo tra virgolette nei confronti del sindaco, sicuramente un riconoscimento delle colpe oggettive di qualche tipo, però la sensazione generale, e qui secondo me è complice una questione molto più ampia che è proprio una questione di cultura politica e di istruzione generale, cioè che c'è la convinzione generale che sia il problema dei tempi, non tanto di quel partito lì. Un problema proprio del tempo, c'è ancora questo strascico che ci portiamo dietro della crisi economica, che ancora le persone sono convinte che la crisi economica porti a questo, e quindi oh ragazzi siamo in crisi e quindi oh, dobbiamo accontentarci di quello che c'è, si è respirato un segno dei tempi, come giustamente dici, si potrebbe riassumere con parlando di rassegnazione popolare. È un realismo, esatto, un realismo alla meno peggio, no? Come dire, possibile. Esatto, è il motivo esatto per cui noi è il motivo esatto per cui noi non abbiamo voluto portare le bandiere, per non essere complici o comunque per non farci vedere sottomessi a questa logica, nel senso, lì c'erano bandiere di tutti i tipi, di tutti i colori, però sapevamo benissimo e lo sappiamo tutti che tanto a guadagnarci sarà solo il PD, perché di certo è Fondazione Comunista, il Partito Comunista Italiano, non ci guadagneranno quasi nulla dall'aver messo la loro bandierina alla manifestazione che poi in sostanza è passata, perché tanto ha parlato il sindaco, ha parlato il presidente della regione Rossi e loro sono coperti tutto l'ambito politico, non hanno fatto parlare nessun altro rappresentante politico, quindi non abbiamo, nonostante ci abbiamo provato, non abbiamo potuto neanche esprimere la nostra opinione, quindi non c'è stato neanche il modo di contestare ufficialmente, diciamo, la gestione della politica di questa cosa, la contraddizione insita nel loro voler fare gli antifascisti durante la manifestazione di Forza Nuova, ma poi dal giorno dopo siamo tutti bravi come prima e cerchiamo di essere amici di tutti, perché di fatto è di questo che stiamo parlando, di una reazione finta sostanzialmente al fascismo, una reazione finta di facciata, no? Giustamente ci fai notare che giustamente ora loro, i fascisti ai quali si è voluto in qualche modo ostacolare o rendere difficile la manifestazione, hanno il loro circolo che il sindaco ha tentato di chiudere, no? Giustamente, quindi i loro spazi ci sono e quindi possono in qualche modo fare la loro... Il sindaco non ha tentato di chiudere il circolo, il sindaco ha chiesto di non far fare la manifestazione, quel circolo è lì da 10 anni. Sì, sì, sì. Nessuno lo vuole chiudere, nessuno ha mai detto chiudiamo quel circolo, capito? Da parte delle istituzioni, dico. Sì, no, questo non ci sarà, capito? Sì, questo dicevo questo, a dimostrazione del fatto che è di facciata il comportamento, esatto, di mondo, esatto, no? Esatto, che almeno gli permettono di avere gli spazi nei quali fanno proselitismo, propaganda e aggregazione. E poi dopo si lamentano se c'è una manifestazione, ecco. Però ancora evidentemente la gente non lo ha ben chiaro, insomma. Non c'è tantissimo questo collegamento, è una questione molto difficile, però tutta collegata ovviamente alla politica locale, il giusto, ma anche locale, soprattutto nazionale. Però per esempio se smetti di costruire case popolari, ovviamente non costruisci più case popolari, o anche senza costruirle, prendi tutti gli appartamenti sfitti che ci sono, li ristrutturi e ci metti famiglie, ci sono migliaia di famiglie in attesa di una casa popolare che non possono permettersi un tetto dove vivere, e te non fai assolutamente nulla, e lo potresti fare anche a livello comunale, quindi anche a livello di sindaco, non fai assolutamente nulla per risolvere questa situazione, ovviamente l'odio tra il povero e il povero aumenta, ovviamente il contrasto sociale aumenta, lo scontro sociale c'è, nelle periferie diventa il nero il nemico, nelle periferie diventa il cinese il nemico, capito? Non diventa certo l'istituzione il nemico, questa è una cosa logica, cioè è proprio funzionale, la sappiamo tutti, però la sappiamo tutti tra chi fa politica, diciamo così, è più difficile spiegarla alle persone che vivono questa situazione. Certamente. Senti Nicola, ti posso fare un'altra domanda? Certo. Senti, ti volevo chiedere così una riflessione rispetto a proprio il volantino della loro manifestazione, che in qualche modo a me personalmente perlomeno mi ha non stupito, però in qualche modo mi ha colpito, perché non c'era un riferimento ai temi della sicurezza, del degrado, dell'immigrazione clandestina intesa come i neri, i poveri, le classi sfruttate, come spesso accade da parte di questi soggetti, appunto da passare dai neofascisti fino ad arrivare alla Lega, che costituisce oggi quell'ombrello protettivo sotto il quale tutti questi si sentono più coperti, più, certo, no? più tutelati. Certo. C'era il dragone cinese, no? Quindi in qualche modo per una città come Prato, dove sappiamo le dimensioni dell'immigrazione, ma anche quanto questa immigrazione sia un'immigrazione che produce ricchezza, no? Quindi sono in qualche modo anche i padroni del territorio, sicuramente molti di loro lo sono. Cioè, ma che tipo di attività fanno Forza Nuova Prato? per schierarsi e scagliarsi in questa maniera contro la cultura cinese, tanto da utilizzare il simbolo del drago, che sicuramente era una foto del capodanno cinese che si è tenuto poco fa, no? Per febbraio. Loro sostanzialmente fanno poco o nulla se non propaganda sport sui social, perché per fortuna, come si era detto prima, sono 50, si spera che resteranno 50, quindi diciamo di roba pratica fanno poco. Da questo punto di vista è un pochino più attiva Casa Pound con i loro banchi alimentari per gli italiani, cioè praticamente fanno la spesa solo per gli italiani, però quindi è questa la loro differenziazione dalle altre forze politiche. Forza Nuova non è che faccia politica, a essere onesti, o chissà che cosa all'interno della città. È nata da pochissimo, la sede gli è stata fatta aprire l'anno scorso e quest'anno si candida alle elezioni con un candidato sindaco che gli è un personaggio che è un imprenditore, che ha un'agenzia di spedizioni, che fino a pochi anni fa aveva addirittura un'agenzia per badanti, quindi capisci bene anche le contraddizioni proprio interne che c'hanno proprio tra di loro, diciamo. Ma si sa, diciamo, che il loro modo di gestire la politica e l'economia è quello, Fiore è la dimostrazione più lampante di questo fatto. E loro di fatto, dicevo, non è che facciano tanta politica, però sfruttano tutta una serie di, hanno sfruttato tutta una serie di coincidenze che, legate al clima pratese, come hai detto te, di forte immigrazione, hanno sfruttato tutta una serie di coincidenze. Due mesi dalle elezioni, il capodanno cinese è appena stato fatto. A Prato è stato dato il permesso per costruire una moschea proprio in quella piazza del mercato dove già c'è il tempio buddista. Loro non hanno scelto la piazza a caso, la piazza è la piazza dove c'è il tempio buddista e dove hanno dato l'ok per costruire, dopo tantissime proteste da parte loro, per esempio delle Foglie 14, questo circolo che ti dicevo, per costruire una nuova moschea. E loro hanno scelto questo luogo quindi non a caso, però ripeto, non lavorando sul territorio ma sfruttando dinamiche che già esistono. È per questo che ci piace puntare il dito non contro Forza Nuova, ma non perché non siamo contro Forza Nuova. Forza Nuova è pericolosissima, però purtroppo Forza Nuova, quello che riesce a guadagnare di terreno mediaticamente, lo fa su un terreno che è stato coltivato da altri, non da loro. Loro non hanno assolutamente la forza di fare un ragionamento del genere e neanche l'autorità di poter farsi ascoltare dalle persone. Il problema è che tutti i media italiani, tutti i grandi partiti, tutti dall'inizio alla fine, quello che passa alle persone, al cittadino comune, è sempre che l'immigrato è un pericolo, che il musulmano è pericoloso, che è l'immigrato il problema del lavoro, è l'immigrato che ti abbassa il salario, non il padrone che fa arrivare l'immigrato e di conseguenza ti fa abbassare il salario anche a te e ti leva diritti perché tanto c'è qualcun altro che può essere pagato di meno, quindi o ti levo diritti a te oppure ti levo proprio il lavoro, e a quel punto te sei costretto dal lavoratore, da padre di famiglia, madre di famiglia, che devi campare i tuoi figli e te stesso, sei costretto ad accettare condizioni che in altri tempi non avresti mai accettato, perché semplicemente vuoi mangiare, quindi puro istinto di sopravvivenza. Loro marciano su questa cosa qui, per questo serve fare un ragionamento più generale sulla situazione. Non si può fare un ragionamento su Forza Nuova perché è Forza Nuova. Forza Nuova è pericolosissima, ma come fu il fascismo quando è nato? È una reazione ai tempi. Quindi non possiamo concentrarci solo su quello, perché è proprio questa la sua pericolosità, cioè che attira attenzioni, che poi facciamo la manifestazione contro Forza Nuova e il prossimo anno magari Forza Nuova fa la manifestazione e noi la facciamo fare, però il clima è sempre lo stesso, non è cambiato niente, la sostanza è sempre quella, è una questione di tempo. I problemi dei lavoratori non sono stati risolti, i problemi delle persone non sono stati risolti, le persone ancora non hanno una casa, la sanità continua a essere privatizzata, questi sono problemi che non si risolvono. No, assolutamente. Eliminando Forza Nuova. Forza Nuova marcia sopra questi problemi. Quindi è questo il problema fondamentale. Per questo vi dico, Forza Nuova non è che fa politica a Prato, non fa attivismo a Prato. Forza Nuova sfrutta dinamiche nazionali che a Prato sono caricate all'ennesima potenza, perché c'è una forte immigrazione, tantissime contraddizioni, con tutti i problemi che ne derivano. E quindi loro ci campano benissimo su queste cose qui. Però, ripeto, il problema è proprio generale, è proprio di sistema. Sì, ma certo, proprio per dare ancora una volta più ragione al tuo discorso, cioè mentre Forza Nuova se la prende con l'immigrazione cinese, nello stesso tempo il loro leader politico, quello che gli dà la protezione in questa fase, perché nella fase precedente è stato il governo Berlusconi con la Casa delle Libertà, sempre complice il centro-sinistra, ma oggi è Salvini, mentre si svolge questa manifestazione c'è Xi Jinping in visita in Italia che sta stringendo mani a tutti, viene per mettere un po' a posto le cose sull'import-export globale, sulla via della seta, e Salvini non è che pur facendo il sovranista si sottrae a questa legge, che è la legge della globalizzazione neoliberista. Esatto, certo, per cui ha voglia a fare volantini con i dragoni, ma nella sostanza cioè, quello che appunto hai detto è Esatto, ci dimostra ancora di più che il rapporto sono i rapporti di forza. Me la prendo con l'immigrato non perché è straniero, ma perché è debole, è la parte debole. Me la prendo con il lavoratore, con il disoccupato, perché sono le parti deboli della società che non si possono contrapporre, non mi possono fare niente. Se mi arriva il cinese ricco e potente, io mi striscio per terra, perché non è quello, non è il fatto di avere l'occhio a mandorla che mi preoccupa. Poi ci sono anche i razzisti, quelli veri, quelli schifosi, che odiano solo perché hanno il colore della pelle diverso, ma quelli, cioè, è una freccia minimale, cioè sono veramente pochi, tra virgolette, per fortuna, le persone che hanno in testa questo ragionamento. Chi ci campa sopra come Salvini campa sul fatto proprio della guerra sociale, cioè guarda, quello è il tuo nemico, perché quello è il tuo nemico? Non perché è il tuo nemico, ma perché lo puoi sconfiggere. Quindi al precario, al disoccupato, a chi non ha un lavoro, a chi non riesce a capo alla sua famiglia, vuole un capo espiatorio, vuole la soluzione, vuole qualcosa da poter sconfiggere. Io davvero lo posso sconfiggere, capito? E loro ci marciano sopra. E ci mangiano sopra. E ci mangiano sopra a destra e a sinistra, perché lo abbiamo detto tutti, in più parte, che si sono talmente tanto assomigliati che non riusciamo più neanche a distinguere. Insomma, io che dire, credo che Nicola ci hai fatto un quadro esaustivo, sei stato molto chiaro e sicuramente le tante cose che hai detto, e credo che sinteticamente possiamo dire che antifascismo è anticapitalismo e anticapitalismo è antifascismo, e sono esattamente quello che più di ogni altra cosa volevamo passare dai nostri microfoni a commento di questa giornata. E quindi direi che ci salutiamo, un grande abbraccio, pugni chiusi a te, a tutti i compagni del circolo e del popolo che ha attraversato con intelligenza politica questa giornata, sperando appunto di risentirci, e ci manteniamo la libertà e la possibilità di sentirci più avanti per altri aggiornamenti. Certamente. Che non siano per contestazione a Forza Nuova, ma magari che indichino in modo più chiaro e più evidente al popolo e alle classi subalterne quali sono i responsabili e i meccanismi della propria sconfitta. Nicola, grazie ancora. Un abbraccio a Pugni Chiusi, grazie mille a tutti voi. A presto, ciao Nicola. Ciao. Sarà individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 21 è la tua forza.